L'edilizia come motore trainante di un'economia nazionale sempre più asfittica. L'edilizia come opportunità per i lavoratori ed imprenditori giovani e stranieri. Sembrerebbe un quadro positivo se non ci fosse lo spettro degli incidenti sul lavoro. 507 i morti dal 1 gennaio, secondo i dati dell'Osservatorio di Bologna, il 28% dei quali nell'edilizia, il settore più colpito. Paolo Nerozzi, vicepresidente della Commissione parlamentare sugli infortuni sul lavoro. Servono alcune questioni chiare sui sistemi di sicurezza e sulla formazione. Che sia però una formazione esigibile. Ci vogliono cose che permettano al lavoratore di sapere le regole, di sapere quali sono i pericoli. Regole semplici e certe, dunque, e da risolvere il problema delle forme contrattuali. Ma il nodo che rimane aperto sono i subappalti, ma è la prima l'impresa pulita che ci chiede regole chiare per esempio non fare gli appalti al massimo ribasso, per mettere negli appalti le norme di sicurezza. Una serie di interventi non impossibili ma assolutamente necessari per far sì che il settore possa sviluppare tutte le sue potenzialità. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.